L'interesse per gli animali, per l'animalità, per il mondo animale sta progressivamente incrementandosi, forse anche in risposta alle condizioni sempre più disumane a cui gli altri animali sono sottoposti all'interno delle nostre società. Ma non solo sta incrementando questo interesse, sta modificandosi anche il modo in cui parliamo di animali, o meglio il modo in cui entriamo in rapporto con loro. Già decenni fa Gilles Deleuze e Félix Guattari coniarono il termine divenire animale, intendendo per divenire animale l'entrata in un rapporto reciprocamente trasformativo che ci portava in territori, in ambienti, in situazioni completamente diverse da quelle dell'umano. Sempre Deleuze parlava allora di scrivere con gli animali, perché da un lato doniamo con la nostra scrittura la possibilità di entrare nel mondo umano gli animali, dall'altra parte gli animali danno spessore, significato, corpo a questa scrittura. E direi che proprio all'interno di questa cornice concettuale, anche con lo sviluppo del pensiero femminista e della fabula speculativa che va dalle Guin sicuramente a Donna Haraway, è cambiato e sta cambiando il modo in cui appunto entriamo in rapporto con gli altri animali. Dal saggio classico, strettamente appunto filosofico, siamo passati a questo narrare ibrido, se così vogliamo dire, in cui la fiction si mescola al dato scientifico, in cui il racconto autobiografico si interseca con la riflessione intorno all'animale e all'animalità. Credo che proprio all'interno di questo sviluppo si collochino due libri recenti apparsi in italiano, sui quali ho scritto tramite un'intervista e un breve saggio sul quotidiano Il Manifesto. Il primo è L'autobiografia di un polpo di Vincent Després. Vincent Després è docente presso l'Università di Liegi e in questo lavoro ci mostra proprio con una fabula speculativa come gli animali siano dotati di scrittura, come i polpi possano scrivere, come i ragni possano interloquire con noi possedendo un archivio di conoscenze, come i wombat abbiano una loro propria cosmologia. Després dice chiaramente che si tratta di un vero e proprio esperimento per appunto entrare in rapporto con questi animali altri da noi, che non sono più gli animali antropomorfizzabili del primo antispecismo, ma sono appunto animali da noi fisicamente e profondamente lontani, appunto come un polpo. Appunto, per entrare in rapporto con questi animali dobbiamo entrare in un divenire reciprocamente trasformativo, dobbiamo pensare come debba cambiare il nostro corpo, come debba cambiare il nostro linguaggio, come debba cambiare la nostra grammatica per poter appunto divenire polpo e dialogare con un polpo. Nella stessa ottica credo che entri anche tutto il lavoro che Tommaso Lisa sta facendo intorno agli insetti. È uscito recentemente un suo volume, Insetti del sottosuolo, che segue un volume precedente sugli insetti del sottobosco, e anche qua animali profondamente distanti da noi. È una prosa che mescola al contempo conoscenza scientifica e avvicinamento empatico a queste vite altre. La necessità appunto, come dicevo prima, di modificare le condizioni vitali del nostro corpo per poterci inserire negli anfratti, per strisciare come questi animali fanno in luoghi oscuri dove non esistono piante verdi, dove non esiste attività fotosintetica, dove il tempo e lo spazio sono entità diverse dal tempo e lo spazio con i quali siamo abituati ad interagire. Ecco, credo che siamo di fronte ad un profondo cambiamento della letteratura intorno all'animale. Questi due libri a cui ho brevemente accennato ne sono l'esempio, e sono l'esempio della necessità di mettere in atto degli esperimenti cruelty free, questa volta finalmente cruelty free, per entrare davvero in rapporto con quelle entità, con quei parenti alieni ai quali abbiamo dato il nome di animali non umani.